chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste non dovrebbe neanche esistere. A me non fa paura verti così vicino. A me non fa paura, ma paura da morire. Dentro il mio giubbotto ho provato un po' di tutto. Dal freddo di una notte sei un angelo senza bussola. So che posso cadere, rose rosse sai sempre dirmi cosa farmene di un respiro affannato. So che posso cadere nel punto in cui sei te. Ora dimmi cosa farmene, dimmi cosa fare. Dimmi cosa fare. Ma come un angelo posso cadere nel punto esatto in cui ti trovi tu, senza più ali, senza più preghiere, e non voler tornare mai più su. Ho dato tutto solo per restare nel punto esatto in cui ti trovi tu. Aspetto il cielo per ritrovare l'unica luce dove adesso sei tu. E poi succede che parliamo d'amore senza un mete, poi finisce tutto senza un perché. E poi finisce tutto senza un perché, senza dirci niente. Io ti voglio bene, ma non posso darti le stelle, anche moltiplicando l'affetto che provo per te. Io ti voglio bene, ma non posso mancarti a tal punto da farti impazzire o partire. Lo sai che non amo saperti da solo a quest'ora. Dimmi cosa fare. Ma come un angelo posso cadere nel punto esatto in cui ti trovi tu, senza più ali, senza più preghiere, e non voler tornare mai più su. Ho dato tutto solo per restare nel punto esatto in cui ti trovi tu. Aspetto il cielo per ritrovare l'unica luce dove adesso sei tu. Cosa fare?